Área reservada, directos. Imagínate tú lo que es encontrar a una de las figuras que tú siempre has querido conocer en tu vida. Directos. Viendo un video de un concierto mío en el lobby del hotel. Directos. Y gozando como un niño, ¿sabes? Y cuando lo vi, me saludó, hey, babe, o sea, todo eso y fantástico. Directos. Allí oí a Mike tocar las Doloretas y lo que me atrajo de la pieza fue... Directos. Él rompe, o sea, es una melodía muy sencilla si te pones a ver, pero es cromática. La melodía sería como... Pero él la rompe así. O sea, que hay una mentalidad ahí detrás de todo eso. Directos. Y claro, con el funk abajo... Yo le metí la timba, por supuesto, detrás, porque le metí un poco de guaguancó. Directos. El groove, que tú hablabas anteriormente, o sea, el ritmo, es una timba bien enfocada hacia guaguancó, porque comienza... Es entre funk y guaguancó. Es como una timba cubana, como que se puede poner hasta un montón encima, que... Es lo que está metido atrás en la cabeza, claro, que uno se tira por el lado del jazz y comienza... Sigue, ¿sabes? Y es una cosa muy interesante porque es un blues menor, pero con la mezcla de lo afrocaribeño, yo creo que se volvió bastante interesante. Directos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Área Reservada aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Bueno, como hemos venido anunciando en estos días pasados, hoy tenemos toda la hora dedicada a este músico italiano que se llama Cesare Pico. Muchas veces en la radio y en los programas de radio musical las cosas suceden de la manera más curiosa. Él se pasó hace ya algunos meses, nos dejó algunos demos, algunos temas todavía sin remasterizar y demás, y nosotros empezamos a programar la música de Cesare en Área Reservada. Pronto, pues la acogida, digamos, la aceptación de la gente fue importante. Nos siguió mandando más temas hasta que ya recibimos lo que es el disco al completo, el álbum titulado My Room. Es el primer disco de Cesare. Cesare, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, es un honor muy, muy grande tocar en vivo por Área Reservada. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué hay en el pasado de Cesare Pico? Porque, claro, prácticamente conocemos pues la música de tu disco, que no sé si es el primer disco que editas a nivel europeo, por así decirlo, ¿no? En Italia a lo mejor has editado más antes. Io sono pianista, sono il pianoforte da quando ho 4 anni. Uh-huh. Da sempre questo è il mio lavoro. Ho iniziato a scrivere in Italia per orchestre, per teatro. Un'opera lirica per l'Arena di Verona nel 1999 e da 20 anni porto avanti il mio lavoro di compositore e di pianista. My Room è molto importante perché è il primo vero mio progetto e il titolo è per me molto importante. Quando dico Welcome to My Room è perché invito tutti gli ascoltatori a entrare nella mia musica. Uh-huh. Y bueno, este disco, claro, se plantea desde posiciones musicales distintas. Es decir, aquí hay un componente de música clásica, hay un componente de jazz, hay un componente también de electrónica, como vais a poder apreciar. También presento de paso a Matteo Malavasi, que es el bajista que le acompaña, y luego pues unos sampler que él va a ir programando. Es decir, hay parte de electrónica también, y uno se pregunta, ¿dónde te sientes más cómodo? Es decir, ¿en la clásica, en el jazz, en la electrónica? Porque el disco, digamos que engloba un poco todo, ¿no? Probabilmente mi sento cómodo ovunque. Ho voluto mixare il suono puro del pianoforte acustico con i sampler, con la programmazione elettronica, perché penso di sentire molto questo suono. È un po' il suono del futuro e anche del presente già. E, con l'aiuto poi del basso e di percussioni acustiche, spero di essere riuscito a dare un suono particolare, un suono originale. Un suono mio che sento. Uh-huh. Entonces, un secondo disco, ¿cómo te lo plantearías? Es decir, ahora mismo, es decir, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿iría más o menos en la misma dirección de este primero? En fin. Può essere. Di sicuro questa prima direzione la sto ampliando, sto approfondendo il materiale, l'uso dei sampler. E il prossimo disco sarà certamente un passo avanti da uh-huh. questo punto di vista. Uh-huh. Bueno, pues Cesare Pico, vamos a ir descubriendo a lo largo de esta hora de programa en Área Reservada algunos aspectos de su personalidad musical. Yo quería preguntarte, el primer tema que has hecho, el primer tema que has tocado, es una novedad que querías presentar aquí en Área Reservada, se llama Welcome, el tema. Sí, es un grande piacere, una exclusiva per te, Antonio, per tutti i tuoi ascoltatori di Area Reservada. Welcome è un tema nuovo che ho scritto per questa occasione e, come hai sentito, miscela un po' di jungle, un po' di programmazione particolari. E che vas a hacer ahora? Seguimi. Seguimi, che es un poco, o ha sido un poco, digamos, la tarjeta de presentación, primer single o hit single, ¿no?, de este disco. Exacto. Bueno, pues vamos a escucharlo. Thank you. Cesare Pico, hoy en Área Reservada, presentando los temas de su disco My Room y, bueno, otras sorpresas como, por ejemplo, ese Welcome que hemos escuchado en primer lugar y que es una novedad que él ha realizado aquí en Área Reservada. Si nos seguís a lo largo de toda la hora, pues mucha, sobre todo mucha música en directo de este italiano que se llama Cesare Pico. Cesare, tus influencias, es decir, ¿dónde están? ¿Quiénes son tus pianistas favoritos? Bill Evans, Keith Jarrett, Glenn Gould. Esas tres fondamentalmente. Fondamentalmente. Johann Sebastian Bach come compositore. Y hay facilidad en este momento en Italia, es decir, músicos que sois jóvenes como tú, es decir, tenéis facilidad a la hora de hacer conciertos, de dar una salida discográfica a vuestras creaciones. Es un momento molto particolare in Italia. Penso che il pubblico italiano sia disponibile ad ascoltare finalmente una musica di qualità. L'ho capito 2 anni fa quando mi hanno chiamato ad aprire un concerto di Michael Bublé. Michael Bublé è un jazz pop singer, no? Molto famoso. E ho capito che 5.000 persone che ascoltavano il mio pianoforte solo l'hanno ascoltato profondamente e questo per me è stato un forte segnale. Dopo ho avuto la fortuna di collaborare e di aprire i concerti di Al Jarreau, di Terence Blanchard e piano piano la mia audience si è allargata e il disco My Room è stato quindi una conseguenza naturale. In Italia non è oggi molto facile trovare dei concerti, no, non è molto facile. Io credo che ogni artista si deve inventare un percorso originale, ma il pubblico è pronto. Claro, pero por ejemplo, bueno, pues digamos en los artistas de pop, un poco primero es la imagen, luego el disco y luego los conciertos, los directos, pero en el caso de un músico casi casi los conciertos es lo primero para poder dar salida a vuestra música. El concierto es el primer vehículo, ¿no? Claro. Per noi. Si stanno aprendo molti canali in Italia, molti festival che prima erano destinati solo a musica pop si stanno contaminando e questo comunque è un buon segno. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Karakum. Karakum è un pezzo in piano solo contenuto nell'album My Room che qui in Spagna, volevo dire, è distribuito per Maui Music. No? È un disco che già sta disponibile desde hace algunas semanas, è un disco che si può comprare già qui in Spagna. Esatto. Karakum è una curiosità, Karakum è il nome di un deserto molto grande al nord dell'Afghanistan, tra Iran e Afghanistan. E in un viaggio che ho fatto qualche anno fa in macchina sono rimasto incantato da questo posto. Il pezzo è Karakum e per Area Riservata ho ampliato il tema di piano solo con una base con i sample. Vamos a ver. Thank you. Pues este tema se llama Karakum y también pertenece al disco My Room de Cesare Pico, hoy aquí en Área Reservada. Es curioso, pero bueno, curioso, relativamente. O sea, muchos de los temas de tu disco perfectamente podrían ser cantados, ¿no? Entonces a ti, digamos, esa vertiente de compositor para que canten otros, incluso productor y arreglista, ¿te interesa o pasas absolutamente? Realizzare i miei pezzi come canzoni, diceva? No, se ci fosse una proposta di mettere la voce sulle tue musiche. Ah, qualche cantante in Italia mi ha fatto questa proposta. Uh-huh. Chi, per esempio? Diversi anni fa ho collaborato con un artista come Claudio Baglioni, uh-huh, che è un pop singer, uh-huh, e c'era il progetto di mettere delle parole a questa mia canzone. Poi in maniera naturale la cosa non è uscita, non è sortita. Uh-huh. Non lo so, ci devo pensare. È difficile perché dentro di me, quando nascono le canzoni, quando scrivo, quando compongo, canto, ma non riesco per ora a concepire delle parole, non riesco a sentire delle parole sulla mia musica, ma può essere. l'elettronica, es decir, hay algún disco, en fin, que hacen, de los muchos que hay, ¿no?, de jazz, electrónica y tal, que te haya interesado y que haya sido un poco definitivo a la hora de decir, bueno, pues yo también, aparte de tocar piano, aparte de clásica jazz, pues también voy a meter electrónica, que es una manera, digamos, de sintonizar con la gente más joven. Sí. Beh, ho dei miei riferimenti come album, di sicuro alcuni lavori di Björk, uh-huh, come elettronica. Björk. Mi interessa molto la sperimentazione di Aphex Twin, uh-huh, e poi anche chi potrebbe essere? No, sono questi due che ho ascoltato in questi anni e che mi hanno creato delle buone atmosfere, uh-huh, e ispirato nella composizione. Uh-huh. Bueno, l'uso mio dei campionamenti della programmazione è esclusivamente finalizzato a mixare con il suono acustico. È probabile che se io facessi solo elettronica farei tutt'altro tipo di programmazione e di sicuro non ne sarei capace a quel livello. Uh-huh. Io finalizzo, cerco di usare la strumentazione elettronica come, è paradossale, come uno strumento acustico, come un timbro, uh-huh, no, che mi ispira. È come scrivere per un altro strumento, no? Considero tutta la programmazione elettronica come un'orchestra compatta su cui aggiungere poi il pianoforte. Uh-huh. E ti atreverías piano solo con orchestra, con gran orchestra? Para... Ah, sempre molto bello, ma mi è capitato in Italia di fare diverse cose. E, prossimamente avrò un grande piacere, un grande onore, a giugno, in un festival molto importante in Italia che si chiama Le 10 giornate di Brescia, Brescia vicino a Milano. Un progetto di contaminazione con la musica classica. Ho riscritto il concerto numero 5 brandeburghese di Johann Sebastian Bach, uh-huh, in tre movimenti e lo suono con la Camerata di Berlino, pianoforte, archi e flauto. Ho usato lo stesso organico. Al posto del clavicembalo ho messo il pianoforte, uh-huh, con l'improvvisazione. Nos comentabas antes que has tenido la oportunidad de telonear, o sea, de abrir, de opening, de gente como Al Jarreau, como Michael Bublé, ¿eh? En fin, pues son dos cantantes, hombre, por supuesto Jarreau a mí me gusta mucho más, Michael Bublé no es de mis favoritos, en fin, me gustan más otros, ¿no? Sí. ¿Ellos te dijeron algo a la hora de escuchar tu música? Sí, beh, con Al Jarreau è nato un rapporto molto buono. Lui è un personaggio meraviglioso, mm-hmm, ha voluto che il suo tecnico audio curasse personalmente la ripresa del pianoforte, del suono, e mi ha seguito molto, è stato veramente molto molto, molto gentile, molto carino, e mi ha detto che il mio modo di suonare il pianoforte in America non esiste e questo mi ha fatto molto piacere. È stata una bellissima esperienza. Poi Terence Blanchard è un altro grandissimo jazzista, ma delle persone con cui ho lavorato, devo dire che Al Jarreau è un bel ricordo. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando más temas de tu disco, de ese My Room. Sí, prima volevo fare una sorpresa. Uh-huh. Per te e per i tuoi ascoltatori. Un tributo a John Coltrane. Uh-huh. E la sorpresa è che il titolo lo diciamo dopo. Venga, pues vamos a escucharlo entonces. Cesare Pico, esto es Área Reservada en Radio 3. A muchos de los músicos, ¿cuál es en este momento, dentro de la música italiana, hay mucha gente que haga más o menos lo que tú haces? Muchos músicos que hagan, pues... igual, vamos, o sea, diferente, come, sì, o sea... Come me, simili? Sì. No, francamente no, non penso. Sono per ora l'unico in Italia che miscela l'elettronica, il computer programming, con l'acustico. E la cosa che tengo a dire è che io non mi considero propriamente un jazzista. Come vedi, come ascolti... il mio interpretare gli standard è totalmente personale e quindi può piacere come non può piacere. Quando io affronto un tema non mio, uno standard, è perché penso di riuscire a trovare una chiave personale, claro, per sì. entrare. Sì, se sì, no sì, non lo faccio. Io ho in repertorio pochissimi standard. Si contano veramente su... Hemos escuchado John Coltrane ahora, Giant Steps, efectivamente. ¿Y qué otros autores te toca tocar? Es decir, ¿te gusta tocar? Es decir, dentro de los pocos standards que dices que... O sea, que no estarías dispuesto a hacer, por ejemplo, un disco de standards, vamos, no te gustaría. A lo mejor dentro de unos años lo tendrías que hacer, pero de momento no quieres hacerlo. En este momento no. En el álbum My Room, ¿sí? C'è un solo pezzo non mio. Che io reputo uno standard perché per me è un pezzo meraviglioso. Corazao Vagabundo. Bravissimo, di Caetano Veloso. Di Caetano Veloso. Meraviglioso. E perché ese acercamiento alla musica brasileña solo? A través de Caetano, por Caetano? No. Por... Beh, por Caetano sicuramente. Ma non ho un attaccamento particolare. No. Corazao Vagabundo per me è come Giant Steps. Ok, cioè l'approccio che io ho avuto per Corazao è esattamente lo stesso che io ho avuto per Giant Steps. E quindi non è che amo particolarmente la musica brasiliana. No. È uno dei sì, tanti sì. amori, ma non è il mio amore. Pues sì, io credo che lo possiamo toccar, no? Y así, pues, perfetto. Corazao Vagabundo, il tema di Caetano, versione in diretto e in Area Reservata. Cesare Pico, accompagnato por il bajista Matteo Malavasi. Corazao Vagabundo, el tema de Caetano Veloso, y sobre todo descubriendo los rasgos de la personalidad musical de Cesare Piccolo, que él nos comentaba, es decir, que él trata de acercarse a otros autores, lo hace en contadas ocasiones, pocas veces, pero acercarse a autores como Coltrane, autores como Caetano Veloso, desde el punto de vista de la originalidad, es decir, de no seguir, digamos, los parámetros de las estructuras originales de los temas. Cesare, ¿qué planning tienes para el futuro, digamos, más inmediato? ¿Has podido hacer promoción de tu disco, de este My Room en Italia? ¿Las emisoras de radio, las FMs, como estamos haciendo hoy nosotros, te programan o, en fin? Sí, diverse radio en Italia están transmitiendo la mi música con una particular... un particolare gradimento, perseguimi. Okay. Così. La cosa curiosa è che in Giappone sta succedendo la stessa cosa che è successa con Area Reservata. Uh-huh. E per me è un grande piacere, perché proprio in questi giorni una importante emittente radiofonica di Tokyo ha trasmesso in esclusiva il disco. Ha avuto un successo inmediato. Sí, no, es que además allí, no, imagino que la conocerás, pues claro, la presencia de Hiromi Uehara, que es la pianista, que también hace una música muy distinta a la tuya, pero también mezcla con electrónica y con ese juguete que ella pone encima del piano y tal, pues hay un boom en este momento allí con Hiromi y con el piano, ¿no? Absolutamente, molto conosciuta in Giappone. E ora sto vivendo questa particolare emozione, perché il disco non c'è ancora in Giappone. Uh-huh. Eppure sul mio sito, che volevo citare, che è cesarepicco.com, uh-huh, molti visitatori giapponesi mi stanno scrivendo per sapere di più sulla mia musica. È bello il nostro lavoro, perché arriva prima la musica, prima di noi, poi noi arriviamo dopo. Uh-huh. Come qua in Spagna, il mio grande piacere è stato che prima la mia musica è arrivata, grazie a Area Reservata, e dopo sono arrivato io. Uh-huh. Fíjate que además que mucha gente piensa y dice, para que suene un disco en un programa de radio, pues siempre la compañía de discos que te llama, oye, este disco, no sé qué, lo que siempre se comenta, ¿no? Tú viniste, sí. Cuenta un poco cómo fue la historia, ¿no? Porque yo llegaba al programa, llegaba, sería la 1:30 de la tarde. La voglio raccontare, perché è una cosa che mi porterò sempre nei miei ricordi. E ti dico una cosa, e per questo amo la Spagna, perché in Italia è impossibile fare così. Matteo Malavasi, il contrabbassista, mi diceva, lui vive alle Canarie, mi diceva, guarda che c'è una trasmissione bellissima, meravigliosa, che si chiama Area Reservata, e magari, sai, la tua musica potrebbe servire, funzionare. Io l'anno scorso ero qui a Madrid per lavoro, e allora ho detto, perché no? Provo ad andare, sono venuto qua nei tuoi studi, mi hai accolto in maniera gentilissima, ti ho consegnato il mio disco e evidentemente ti è piaciuto, e poi adesso sono qua. E questa è una cosa che ti posso assicurare, in Italia difficilmente può succedere. Pues es la ventaja de Radio 3 aquí, de Radio Nacional, pues que nos lo que más nos gusta es poder sacar a un músico, a un artista, a un cantante, a un grupo, pues sacarlo, ¿no? Sacarlo y que la gente pueda apreciar pues toda esa capacidad creativa que realmente tenéis. Hablábamos de planning, es decir, tú este verano podrías venir a España a tocar, a hacer conciertos si te llaman. Mi piacerebbe molto, se mi chiamano, mi piacerebbe molto aggiungere anche alla formazione un percussionista e proporre quindi tutto il repertorio di My Room e più delle novità. Mi piacerebbe molto comprendere e capire il pubblico spagnolo. Bueno, nos quedan 4 minutos y algunos segundos de programa, así que ya nos despedimos, terminamos Área Reservada. Agradecerte que hayas estado aquí. Vamos a hacer un tema más, un tema más. También gracias a Mateo, que bueno, le podéis seguir en Santa Cruz de Tenerife, él anda por allí y que acompaña pues a César Pico. Gracias, Mateo, también. Y gracias a vosotros por escucharnos. Así que bueno, me ayudas a terminar el programa con un tema más. Y bueno, espero verte por aquí pues próximamente, ¿no? Y a poder ser haciendo conciertos, no ya aquí en la radio, sino fuera de la radio también. Grazie, è stato un grande onore suonare in questo studio per Antonio Fernandez, per Area Reservata, per tutti gli ascoltatori. Volevo ringraziare tutti voi, volevo ringraziare la Maui Music e tutti i nuovi amici che con questo mio disco riuscirò a incontrare per strada. Bueno, pues muchas gracias y hasta mañana.